Bancarotta è un collettivo di compagni e di compagne che si è creato a dicembre, credo, del 2019, quando uscì un avviso pubblico a nome del Comune di Bologna, nello specifico dell'Ufficio Cultura, quindi sotto l'assessorato di Matteo Lepore, per l'assegnazione di diversi spazi nel territorio, nel Comune di Bologna, tra cui uno anche in via Fioravanti 12, anche se originariamente indicato con un altro numero, cioè sostanzialmente dove è situato il Cavia Bertasi, tra la magnifica Trilogia Navile e quello che era l'XM24. Bancarotta rispose all'avviso pubblico con un progetto e vinse l'assegnazione di quello spazio. Però qualcosa è andato poi storto. Qualcosa è andato storto, nel senso che quello spazio è vuoto, bancarotta non c'è, bancarotta non ha le chiavi di quello spazio e questo è un mistero tra i tanti cittadini. Probabilmente il mistero sta nel fatto che a bancarotta come gruppo interessava sì quello spazio, ma anche in termini strumentali, perché quello spazio doveva essere anche il luogo, come indicato da progetto, per discutere le modalità di assegnazione di spazi in città, soprattutto per quanto riguarda le realtà autogestite, nuovi modi per fare i bandi, ridiscutere il regolamento dei beni comuni, insomma fare attività politica affinché in qualche modo si aprisse un dibattito sugli spazi, tra l'altro oggi assolutamente necessario. Abbiamo visto tutte le delibere sulle caserme che stanno uscendo, che dovrebbero essere votate in questi giorni. Quindi bancarotta aprì un tavolo, prima rifiutando interlocuzione della Fondazione Immaginazione Urbana dell'ex Urban Center, ma direttamente con l'Ufficio Cultura e quindi con Matteo Lepore, dicendo: discutiamo del fatto che lo spazio in via Fioravanti non è agibile, non ci si può far nulla, no, la risposta del Comune non può essere quella per cui se lo spazio fosse stato agibile allora l'avremmo messo in vendita, perché è veramente una risposta che fa male ai cittadini, anche se purtroppo è così. Poi quel tavolo si interruppe dopo mesi e mesi di dialogo che ci sono sembrati costruttivi e il Comune non risponde più a nessuna mail, nessuna telefonata, lasciando libero quello spazio. Cioè sostanzialmente il Comune ha messo a bando degli spazi che erano inagibili, voi avete vinto, l'assegnazione non c'è stata perché comunque voi avreste dovuto, tra virgolette, rimetterlo a posto per entrarci? Noi avremmo dovuto rimetterlo a posto, fare tante cose, quindi abbiamo aperto una trattativa, una negoziazione con il Comune per cercare appunto di venirsi incontro, cioè cosa può fare il Comune, cosa possiamo fare noi, come dividersi le spese, quindi aprire una trattativa che però non riguardava solo il nostro spazio, ma in generale il modo in cui si assegnano gli spazi, e stava andando bene. Ci incontravamo settimanalmente presso Palazzo D'Accurzio, all'Ufficio Cultura, e poi quando non siamo stati probabilmente più utili, perché appunto la finestra sulla bellezza dei luoghi, dei beni comuni, su come Bologna è una capitale e all'avanguardia riguardo a questi temi, si è chiusa a un certo punto a livello di propaganda e il Comune non ci ha più convocato ai tavoli. Abbiamo chiesto più volte di essere convocati, di non lasciare quello spazio vuoto, di insomma ricontinuare quella trattativa che stava portando a buon fine. Non abbiamo mai avuto risposta da più di un anno. Bancarotta non sa più che fare, ha scritto adesso un giornalino per raccontare queste vicende, ma come dire, c'è un silenzio assordante, come si dice. Ma visto che voi avete partecipato a un bando e l'avete vinto, avete pensato di impugnare questa mancata assegnazione in qualche modo? Sì. Quello che stiamo facendo in questi giorni è, in questi ultimi mesi in verità, da una parte raccontare un po' quello che ci è successo, perché questo deve in qualche modo avvertire e essere testimonianza, denuncia a una città che sta per, come dire, essere oggetto nuovamente appunto di politiche sugli spazi e sull'assegnazione, caserme Sani, caserme Masini, caserme Mazzoni, che si votano, come dicevo, in delibera adesso nei consigli di quartiere e poi in consiglio comunale. Dall'altra parte sì, quello che stiamo cercando di capire è intanto se siamo ancora gli assegnatari di questo spazio, perché la questione è così ridicola che vorremmo capire se siamo ancora assegnatari, quindi adesso chiederemo a compagni, a compagne che ne capiscono un po' di più di noi, che sono più giurisprudenti, insomma a che punto siamo. Questo ovviamente aspettando sempre che il Comune, non dico ci telefoni perché questo non ci crediamo più, ma se non altro risponda alle nostre telefonate. Ora siamo in campagna elettorale, probabilmente questa cosa è di poco conto, però ripeto, la questione spazi in via Fioravanti ci riguarda e riguarda tutta la città, perché solo a pensare appunto al quartiere dov'è la vostra radio e proprio dove abito anch'io, se uno va in via Ferrarese e va in quell'area trova migliaia e migliaia di metri cubi tra caserme, ex fabbriche, ce ne sono tantissimi in un territorio che è ricchissimo di associazioni che vorrebbero in qualche modo partecipare, gruppi informali. Noi come Bancarotta ne abbiamo riunite più di 10 di associazioni eterogenee, da XM24 fino a un gruppo appunto di artisti, di bibliotecari, eccetera eccetera, e quindi insomma sarebbe il caso di intervenire, che questo oggetto ricomparisse nella campagna elettorale, non solo a suon di delibere da votare urgentemente nei consigli di quartiere e in consiglio comunale, ecco, ma che s'aprisse veramente un dibattito su che città vogliamo e che cosa fare di migliaia di metri cubi non assegnati o non assegnati, e forse aprire anche un dibattito sulla partecipazione a questo punto, perché è il grave assente tutti questi processi.